Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un personaggio fra i più battuti dalla letteratura e dai libri di storia, cioè Napoleone, che ritorna in un libro di Sergio Valzania, che è appassionato divulgatore di storia, nonché autore radiofonico e televisivo. Egli ha appena pubblicato I 10 errori di Napoleone, sottotitolo Sconfitte, cadute e illusioni dell'uomo che voleva cambiare la storia, pubblicato da Mondadori, 232 pagine, 19 euro. Quali sono questi errori fatali di Napoleone? L'autore ce li descrive subito: la rottura della pace di Amiens, la battaglia di Trafalgar, l'editto di Berlino del 1807, Giuseppe posto sul trono di Spagna, la campagna di Russia, l'avanzata oltre Smolensk, i 35 giorni a Mosca, l'armistizio del giugno 1813, il rifiuto delle offerte di pace del 1814 e infine la scelta dei comandanti nella campagna del Belgio. Ma il libro non è un catalogo di errori, piuttosto è una brillante ricostruzione degli ultimi anni, e non soltanto, di Napoleone, da Waterloo a Waterloo potremmo dire, cercando di penetrare nella testa dell'imperatore, che dal libro emerge come il frutto di uno strano mix di innovazione e tradizione, ma comunque espressione di un modo nuovo e diverso di guardare alla storia, ai rapporti con i popoli e agli equilibri internazionali. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Sergio Valzania. Buongiorno. Allora, parliamo di Napoleone. Il suo libro ha il sottotitolo Sconfitte, cadute e illusioni dell'uomo che voleva cambiare la storia. Però, insomma, lei stesso indica nel suo libro che qualche risultato nella modernizzazione del mondo Napoleone la ottenne. Molto di napoleonico, lei scrive, e di rivoluzionario sopravvive nell'ambito delle istituzioni e delle leggi, nonché dei nuovi modelli di pensiero politico che si vanno affermando in Europa. Quindi un personaggio ancora attuale. Ma sì, sicuramente. Però poi, fra l'altro, titoli e sottotitoli sono molto stringati rispetto a quello che uno tenta di scrivere, di raccontare. Quel libro cerca di spiegare come mai Napoleone perde e anche di raccontare un po' com'è Napoleone, di raccontare la sua personalità, i problemi della sua personalità che poi gli impediscono di fatto di essere un vincitore. Alla fine lui personalmente è uno sconfitto, poi una parte della sua produzione intellettuale, normativa, anche con immaginario collettivo gli sopravvive, tant'è poi addirittura suo nipote ridiventa imperatore, quindi vuol dire che i francesi almeno gli riconoscono tutto un alone di positività, però lui è un uomo che muore a Sant'Elena abbandonato. Ecco, di questi 10 errori, secondo lei qual è stato il più grave? Il più grave, l'inizio e la fine, uno ricominciare la guerra con l'Inghilterra e alla fine non cogliere l'occasione che pure gli si presta più volte di smettere, di cessare la guerra a qualunque costo. Cioè lui, che è un genio, pensa di poter sempre ribaltare sul piano tattico una situazione strategica che di fatto gli è sfavorevole dall'inizio e quindi lui non può vincere e continuando la guerra all'infinito alla fine la perde. È il confronto con l'Inghilterra perché lui immagina che il punto d'equilibrio corretto dei rapporti fra Francia e Inghilterra debba essere favorevole alla Francia, mentre invece è in vantaggio l'Inghilterra, come poi tutta la storia successiva dimostra. Da Napoleone in poi, dopo una pausa così con Napoleone III, però la Francia politicamente è succube dell'Inghilterra. Gode della potenza inglese in una posizione leggermente arretrata. E lei nel suo libro scrive che proprio in questo conflitto con l'Inghilterra Napoleone mostra di avere una concezione della guerra più arcaica di quella inglese. Ah sì, lui immagina, lui è un soldato. C'ha tutti i limiti che hanno i soldati. Lui pensa che la guerra vada combattuta con le armi in una grande battaglia, mentre gli inglesi gli impongono la guerra commerciale, gli impongono la guerra di blocco, l'eliminazione dei commerci. E quindi Napoleone è costretto ad accettare uno scontro perdente che poi il blocco continentale, quei tentativi lì di opporsi alla politica inglese che è una politica di blocco. E in questo confronto a un certo punto svolge un ruolo importante, insomma diventa una pedina importante anche la Sicilia. Sì, la Sicilia ha un ruolo importante perché Poi la Sicilia è il luogo dove sono scappati i Borbone, che hanno lasciato Napoli e perché si sono ritirati a Palermo, dove rimangono poi per tutti quegli anni del regno di Napoli, quello prima di Giuseppe e poi di Gioacchino Murat. E Napoleone non è capace di trovare un accordo con gli inglesi anche in relazione alla Sicilia. A un certo punto lui continua a pretendere di riottenere anche la Sicilia, di riaccorpare la corona di Sicilia a quella di Napoli, e così perde un'altra di quelle tante piccole occasioni diplomatiche che si prestano per chiudere la guerra con l'Inghilterra, perché poi anche gli inglesi non è che fossero contentissimi di fare la guerra contro Napoleone. Immaginavano di essere costretti perché Napoleone voleva un equilibrio sfavorevole a quelli che trattavano con lui. È il problema anche della Russia. Perché si rompe l'accordo con la Russia? Perché Napoleone non capisce che dopo aver fatto l'accordo con lo zar, la pace, avere coinvolto la Russia nel blocco continentale, lui deve sostenere la Russia, deve far sì che i russi, lo zar, ma soprattutto la società russa sia contenta dell'alleanza con la Francia, non contraria, sempre più contraria all'alleanza con la Francia, perché poi queste cose si rompono indipendentemente anche dalla volontà del sovrano. All'inizio del suo libro lei sottolinea come Napoleone sia stato il frutto anche del romanticismo. Il romanticismo, scrive, cerca i suoi eroi nel Medioevo, ma ne produce uno dai tratti esemplari, cioè lo stesso Napoleone. Sì, cioè Napoleone è chiaramente un eroe romantico, è colui che lotta contro forze più grandi di lui, che non potrà mai vincere e alla fine soccombe, quindi è tipico eroe romantico. E quelli sono gli anni del romanticismo, poi Stendhal non a caso è uno che narra di quegli anni lì, che ha vissuto quegli anni lì, che ha combattuto addirittura in quegli anni lì, e Napoleone è il proto-eroe romantico. Napoleone non sarebbe culturalmente romantico, perché lui anzi è un illuminista, per quello non capisce niente dei sentimenti dei popoli. Napoleone perde in Spagna perché non capisce come mai, contro ogni logica, il popolo spagnolo sia fedele a un re corrotto e incapace, invece di sperare di essere amministrato dai francesi, che sono oggettivamente più moderni, però che gli spagnoli non vogliono. E lo stesso è in Russia, lui non capisce come mai di fronte alla guerra la società russa si compatta invece di spappolarsi come aveva sperato lui. E in questo senso Napoleone ha sempre una mentalità illuministica, lui è un razionalizzatore, però si trova anche a interpretare questo ruolo dell'eroe romantico, tant'è tutti quelli che lo raccontano Napoleone, che poi sono sostanzialmente i suoi, tutti quelli del suo ambiente che scrivono memorie, fiumi di memorie, le scrivono con piglio romantico, anche perché scrivono nella prima metà dell'Ottocento e quindi hanno quell'imprinting culturale e esaltano questo carattere romantico di Napoleone, che quindi arriva a noi. Poi noi non lo conosciamo mica Napoleone, noi sappiamo quello che di lui hanno scritto altri e quindi questi altri ci riproducono nel loro specchio deformante una figura assolutamente romantica. Bene, grazie a Sergio Valzani, autore dei 10 errori di Napoleone. Buona domenica. Grazie a voi. Abbiamo parlato di romanticismo, Balzani scrive appunto che il romanticismo cercava i propri eroi nel Medioevo, e allora vi segnalo di Paolo Golinelli il libro Medioevo romantico, poesie e miti all'origine della nostra identità, è pubblicato da Mursi a 202 pagine, 16 euro. Il Medioevo, secondo un filone interpretativo che risale a Muratori, fu l'età in cui la nazione italiana si differenziò dalle altre e costruì una sua identità civile e culturale, ben riconoscibile pur nelle varie forme di governo cittadino, nelle differenti dinastie, nelle molteplici modalità di organizzazione sociale ed economica. E quindi proprio a quel patrimonio fatalmente si rivolse la letteratura nell'Ottocento per creare dei miti che cementassero l'idea della nazione che si stava formando, e qui troviamo appunto la storia della formazione di questi miti, le figure, le situazioni che diedero origine a queste raffigurazioni e naturalmente la loro trasposizione storica. Troviamo per esempio la leggenda di Teodorico e la poesia di Giosuè Carducci, Rosmunda e Alfieri, Ermengarde e Manzoni, Manzoni e così via. La tradizione è una tradizione che è durata a lungo, anzi che non muore, come dimostra l'ultimo capitolo, anzi l'ultimo quadro, perché così intitola i suoi capitoli l'autore, dedicato a un artista che al Medioevo romantico si è ispirato, Fabrizio De André. Non c'è solo infatti Carlo Martello di ritorno dalla battaglia di Poitiers nel suo repertorio, ma ci sono anche due canzoni, Fila la lana e Giovanna d'Arco, di cui avete ascoltato alcune note all'inizio di questa presentazione, che si rifanno appunto a quel periodo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, abbiamo parlato di Medioevo, del Medioevo al quale ci si rivolge per costruire dei miti e allora affrontiamo un aspetto insolito che fa tornare di moda il Medioevo, e cioè l'aspetto della cucina e dell'alimentazione. Ce lo propone questo aspetto il libro di Massimo Montanari, Gusti del Medioevo, i prodotti, la cucina alla tavola, pubblicato dalla Terza, 280 pagine, 19 euro. Avviene in cucina oggi quello che appunto successe nel Risorgimento, come dicevamo poco fa, nella poesia. Del Medioevo, scrive l'autore, si è impadronito il marketing dei prodotti alimentari e della ristorazione. Quella parola e quella immagine si ritengono utili a vendere, a rendere più appetibili le proposte commerciali. Il Medioevo assicura merci e servizi un valore aggiunto. Sul piano dell'immagine l'antico funziona meglio del moderno, conclude l'autore. Rivendicare origini medioevali è un modo per accrescere la nobiltà del prodotto. Esattamente lo stesso percorso di cui abbiamo parlato poco fa. Scrive infatti Montanari che in opposizione all'immagine del Medioevo tenebroso si è delineato un Medioevo luccicante, rivendicato dalla Controriforma e poi esaltato dal Romanticismo, e che si tramutò nell'ideale romantico della purezza originaria. E in tutto questo discorso naturalmente la cucina svolge un ruolo importante, anche se, aggiunge Montanari, spostandoci dal marketing dei prodotti al marketing della cucina, le cose sono progressivamente cambiate. L'entusiasmo per il Medioevo, identificato con la tradizione e perciò senz'altro buono, si è raffreddato, lasciando posto al dubbio, anzi alla convinzione, che tutto sommato nel Medioevo si mangiasse peggio di oggi. E qui appunto troviamo nel libro un'analisi di come si mangiasse in quegli anni, in maniera sicuramente diversa da come siamo abituati noi, soprattutto per effetto di due cause. La prima, che il Medioevo non conosceva ovviamente tutti i prodotti che inondarono e modificarono radicalmente il gusto e la cucina dopo la scoperta dell'America, e il secondo motivo, che il Medioevo proseguiva una tecnica culinaria che risaliva ai Romani, secondo la quale si tendeva a mescolare, a mettere insieme i gusti anziché a separarli, cosa che alla quale invece noi teniamo molto. La cucina medievale, scrive Montanari, aveva elaborato un modello di cucina basato principalmente sull'idea dell'artificio e sulla mescolanza dei sapori, che naturalmente è contrapposto al gusto attuale. Ci sono molti modi quindi per raccontare la storia, e anche la narrazione ce ne può dare una chiave importante. Allora vi propongo due titoli che ci permettono di capire la storia del Novecento attraverso delle storie personali e familiari che aprono squarci importanti per capire questo secolo. Il primo libro è di un grande intellettuale americano scomparso un paio d'anni fa, Tony Judt, di cui la Terza pubblica Lo chalet della memoria, tessere di un Novecento privato, 220 pagine, 16 euro, tradotto da Maria Giuseppina Cavallo, Diana Corsini e Paola Marangon. L'autore, al termine della sua vita, sa di essere stato colpito da una grave malattia e allora si approssima alla fine, cercando di riordinare degli appunti, delle carte che ha scritto, e il titolo vuole parafrasare un libro su un grande italiano, Matteo Ricci, il gesuita famoso per essere l'autore di una tecnica di memoria che si rifaceva all'immagine del palazzo. Il libro infatti si intitola Il palazzo della memoria. Giat non vuole erigere un palazzo che gli apparirebbe troppo pretenzioso e si accontenta di un edificio più modesto, come uno chalet appunto, il percorso nel quale corrisponde a una serie di tappe della vita dell'autore. Si comincia con alcune bellissime, quasi commoventi pagine su, intitolate Austerità, sull'Inghilterra post bellica, ancora povera e prostrata, ma dove la politica ha una sua grande qualità. A questo proposito Judt usa un'immagine che potremmo o vorremmo fare nostra: la serietà morale nella vita pubblica è come la pornografia, è difficile da definire, ma quando la vedi la riconosci. La politica è una passione anche per il giovane intellettuale, che lo porta a fare l'esperienza dei kibbutz comunitari in Israele, un'esperienza molto significativa perché, scrive l'autore, il sionismo laburista mi rese, forse un po' prematuramente, un socialdemocratico universalista. E poi tanti altri temi, fino a quelli di maggiore attualità, per esempio su un certo corso molto diffuso negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che sta corrompendo gli studi universitari e che Judd così riassume. Come spesso accade, i gusti accademici seguono la moda. Tali corsi di studio sono sottoprodotti del solipsismo comunitario. Oggi siamo tutti naturalizzati. Nel mondo accademico, il termine identità è adoperato in modo pernicioso. Gli studenti universitari oggigiorno possono scegliere tra un'ampia serie di studi identitari: studi di genere, studi sulle donne, studi su Asia, Pacifico, America e decine di altri. Il difetto di tutti questi corsi parauniversitari non è dovuto al fatto che si concentrano su una determinata minoranza etnica o geografica, ma al fatto che incoraggiano i membri di tale minoranza a studiare se stessi, negando così gli obiettivi di un'educazione liberale e rafforzando al contempo la mentalità settaria e ghettizzante che in teoria si prefiggono di scardinare. Fin troppo spesso questi corsi di studio sono finalizzati alla creazione di posti di lavoro per i loro beneficiari, e l'interesse da parte di estranei è attivamente scoraggiato. I neri studiano i neri, i gay studiano i gay, e così via. Come spesso accade, i gusti accademici seguono la moda. Tali corsi di studio sono sottoprodotti del solipsismo comunitario. Oggi siamo tutti naturalizzati. Irlandesi americani, nativi americani, afroamericani e combinazioni analoghe. La maggior parte delle persone non parla più la lingua dei propri antenati, né sa molto del proprio paese d'origine, soprattutto se la famiglia ha radici in Europa, ma sulla scia di una generazione che del vittimismo ha fatto vanto, indossano quel poco che sanno come fiero distintivo della loro identità. Sei quello che i tuoi nonni hanno sofferto. Un'altra famiglia anch'essa di ascendenza ebraica troviamo nel libro di Fania Cavalieri, Il Novecento di Fanny Kaufman, pubblicato da Passigli, 368 pagine, 19,50 euro. Questa è una saga familiare ricavata da una serie di taccuini della nonna che l'autrice ritrova e che vuole mettere in bella copia, diciamo così. La nonna scriveva male perché era di origine russa, allora la prima idea è quella di sistemare l'italiano di questi appunti. In realtà ne viene fuori una storia, una vera e propria saga di una famiglia, la famiglia Kaufman, originaria di Yalta, e che diventa modestamente e inconsapevolmente lo specchio e la sintesi del Novecento. Fanny, la protagonista del libro, vive a Yalta, il trapasso dal regime zarista a quello bolscevico, va in Italia per inseguire i suoi sogni d'arte e qui incappa nell'avvento del fascismo. Dopo essere stata lambita dai pogrom contro gli ebrei in Russia, dopo alcuni anni di tranquillità, in Italia purtroppo sperimenta le altre persecuzioni contro gli ebrei, quelle nazifasciste che le porteranno via la madre. Ma sentiamo dal libro l'arrivo di Fanny a Roma. Roma era splendida. La primavera del 1921 avvolgeva la città di brezze profumate. I parchi delle ville erano in fiore. I grandi pini mediterranei si stagliavano verso il cielo, reso terso dal dolce ponentino della sera e sfumato d'arancio nell'ora tiepida del tramonto. Sorprendente sopra ogni fenomeno della natura, impareggiabile per varietà e valore, straordinariamente ricca e variegata, si ergeva tutto intorno l'opera dell'uomo. Ovunque posasse gli occhi, Fanny si trovava avvolta, soggiogata, attratta dalla potenza della creazione, che si esprimeva in tutte le sue forme, di scorcio in scorcio differenti, nuove, sovrapposte. Simmetria, ordine, eccesso, ridondanza, perfezione. Si contrapponevano e si spalleggiavano l'un l'altra, esprimendo l'essenza stessa di ogni epoca, il mutare e il permanere dell'ispirazione. La Roma antica le toglieva il fiato. Il Colosseo, in particolare, e il Pantheon avevano sul suo animo lo stesso effetto di ebbrezza che può dare il cielo stellato in una lucida notte tropicale. Ma la grande emozione nasceva soprattutto di fronte alla Roma dei Papi e del Bernini, presso la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona o a quella del Tritone. E nel libro troviamo molti ritratti azzeccati, ma soprattutto, come dicevo prima, l'affresco di un'epoca e di un continente, l'Europa, devastati dai totalitarismi. Alla fine, dal ramo italiano, nascerà un grande artista, Lic Cavaliere, il padre della scrittrice, grande scultore del Novecento, che a Milano, dove un ramo della famiglia nel frattempo si è trasferito, riuscirà a perseguire il proprio sogno di diventare artista. E a questo punto... Il confettino. Vi propongo oggi due libri che rileggono un grande classico in modo ironico e anche un po' buonista, ma comunque sempre divertente. Il mito è quello di Cappuccetto Rosso e i libri sono Un piccolo Cappuccetto Rosso di Marjolaine Leray, pubblicato da Logos e tradotto da Francesca Del Moro, 12 euro, in cui la piccola la meglio sul lupo, e La storia di Rosanna detto a Cappuccetto Rosso di Tinin Mantegazza, pubblicato da Gallucci, 13 euro, col lupo che verrà sì castigato, ma in forma più blanda della versione originale. Prima di salutarci vi segnalo che è in corso a Codogno la quarta edizione di un concorso interessante, il concorso di umorismo e satira di costume intitolato al grande pittore Giuseppe Novello. Quest'anno il concorso è dedicato al tema del censimento, come cambia la società, sotto la direzione artistica di Amedeo Anelli e la direzione del premio di Lele Corbi. Ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.